Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo è l'ultimo appuntamento in diretta di Radio 24 per questa edizione 2011, che, stando a dati non ancora ufficiali ma che dovrebbero trovare conferma nella conferenza stampa di chiusura e nella cerimonia prevista del tardo pomeriggio, dovrebbe avere come minimo eguagliato, ma probabilmente superato, il record storico di affluenze di oltre 300.000 visitatori. Lo staff di oggi di Radio 24 per questo programma di chiusura è capitanato da Giorgio Bacco e vede schierati in sala Guido Scotti, Elena Ligios ed Elena Piras, in assistenza Laura Vanossi e Marco Lombardo, alle tastiere Michelino Breviato, Pietro Lacorte e Roberto Scaltritti con Davide Ciocia. La formula è quello che vi tiene compagnia abitualmente da 12 anni ormai ogni lunedì e quindi è imperniata sui vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, contrappuntati ovviamente oggi questi interventi da quelli di chi è venuto e li ringraziamo a farci visita qui al padiglione 2 stand L161. Io ho un po' di numeri, di dati e di statistiche e almeno uno di questi non posso rinunciare prima di presentarvi un ospite un po' frettoloso che abbiamo strappato a un'altra redazione. Insomma, questo dato statistico è un dato strettamente tecnico, vi prego di valutarlo come tale, perché tra i tanti indizi che portavano inevitabilmente alla retrocessione della Sampdoria ce n'erano due in particolare. Uno, che la Sampdoria è retrocessa le altre volte negli anni con finale doppia, cioè nel 66, nel 77, nel 99 e nel 2011. L'altra ancora più tecnica, è che è sempre retrocessa con un tecnico completamente rasato o calvo. Era calvo Bernardini nel 66, era calvo Bersellini nel 77, Spalletti nel 99, Cavasin nel 2011. L'unica consolazione per quest'anno è che Di Carlo, rasato a sua volta, non avrebbe potuto far di meglio se era destino che fosse così. Vi dicevo di questo personaggio che è passato a trovarci, che ringrazio davvero, e che si chiama Giancarlo Camolese. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, grazie. Giancarlo Camolese si sta facendo largo a fatica nel Salone del Libro, perché continuano a fermarlo i tifosi del Toro, che io ritengo siano tuttora in maggioranza in città, nella città di Torino, rispetto agli altri. Lo fermano per chiedere quando è che si decide a tornare a Torino, e io credo di sapere che non dipenda da te, no? A grandi linee. No, non dipende da me ovviamente, però tutti sanno l'affetto che ho io per il Toro, ci sono cresciuto, fa parte della mia storia, quindi è chiaro che ho un ottimo rapporto con la città, la mia città, quindi ci sta anche che i tifosi mi chiedano questo. Tra pochi minuti Giancarlo Camolese sarà relatore allo spazio Book qua vicino di un incontro dal titolo Calcio di domani, valori di ieri, a cura organizzato dal settore giovanile e scolastico della federazione. Allora, di tre domande possibili in questi pochi minuti, la prima è se ci anticipi i contenuti di questa iniziativa. Essenzialmente il mio intervento sarà sul ruolo dell'allenatore e su come è cambiato nel tempo il ruolo dell'allenatore, orientato al settore giovanile, perché si parte di lì. Il calcio è sempre stato tramandato perché qualcuno l'ha insegnato ad altri, e quindi questo ruolo è un ruolo estremamente importante, soprattutto quando si analizza in relazione ai ragazzini che si avvicinano a questo sport. La prima persona che incontrano è l'allenatore, e questo allenatore è fondamentale, importantissimo. Io mi ricordo perfettamente gli allenatori che ho avuto nel settore giovanile, ogni tanto mi dimentico qualcuno che ho avuto dopo. Che hai avuto dopo? Ma nel professionismo, certo, diciamo. Ma quelli dell'epoca formativa sono quelli decisivi, sono quelli... Sì, perché oltre agli aspetti tecnici, tattici, sono quelli che secondo me devono alimentare la passione per il gioco. Certo. Quindi alla fine devono contare quanti bambini hanno, e a fine anno se ne sono aumentati o se ne sono andati via. Allora lì si deve chiedere se le sue proposte sono state interessanti, certo, oppure se deve rivedere qualcosa nel suo modo di proporre il gioco. Senti, lo so che è banale domandarti se il Torino può ancora farcela a salire in Serie A, ma visto che è la stessa domanda che ti fanno tutti quelli che ti fermano per il salone, insomma, mi corre l'obbligo di provare a girarla anch'io. Io credo di sì, perché comunque il Torino ha una rosa competitiva, ha un finale di campionato difficile, così come le altre squadre che stanno lottando per entrare nei playoff. Però mi sembra che le possibilità ci siano tutte. Poi è chiaro che in questo momento parla più il tifoso che non il tecnico. Io me lo auguro, perché alla Serie A manca il Toro. Senti, l'ultima domanda è questa. La città di Torino, che questa poi è una domanda, l'anticipo ai presenti in sala, ma anche a chi ci sta ascoltando, è una domanda che farò parecchio più tardi, telefonicamente, perché non è riuscito a raggiungerci, a Massimo Gramellini, al vice direttore della stampa. La domanda è: in questo fervore della città di Torino, che è partita con il 17 di marzo, con queste stupende celebrazioni del 150enario, e poi è passata attraverso gli Alpini, la partenza del Giro d'Italia, questa splendida manifestazione attuale al Lingotto, fa da contrasto un pochino la crisi del calcio torinese. Allora, quella del Torino la sappiamo, una crisi più recente, ma fatte le debite proporzioni, non meno seria, è quella che riguarda la Juventus. Io ti faccio una domanda solo in particolare, che nasce anche dalla tua non eccelsa statura, no? Anche se la tua statura è superiore a quella di, dico Messi, dico Xavi, dico Dani Alves, dico Iniesta, dico tutti i piccoletti del Barça. Perché nel Barcellona i piccoletti diventano dei fenomeni e nella Juventus quelli come Giovinco li mandano via? Perché in un certo tipo di mentalità e di priorità nell'individuazione del talento, molti operatori privilegiano gli aspetti fisici che non gli aspetti tecnici. E quindi può capitare che nelle selezioni vengono privilegiate determinate cose e non altre, che hanno magari più attinenza con il gioco. In Spagna evidentemente non è così, ci sono tanti giocatori piccoli di statura però abilissimi con i piedi. E mi sembra che tra titolo mondiale e successi europei assortiti questa linea stia pagando, cioè mi sembra che il calcio più recente abbia dimostrato che il fisico, per carità, conta, ma conta poi fino a un certo punto. Beh, conta, perché comunque ci sono dei ruoli dove può essere importante, può essere un valore in più, quindi la prestanza, l'agonismo, però siccome la palla si gioca spesso e volentieri, o dovrebbe giocarsi spesso a terra, quello che conta è molto la tecnica individuale. Devo anche aggiungere che è un po' come il vino, no? Ci sono delle annate migliori. Secondo me c'è stato un'annata in cui soprattutto i centrocampisti migliori sono nati tutti in Spagna. Noi facciamo un po' di fatica in questo momento, però non disperiamo di rivederne bravi in Italia. Alla Juventus non erano nati in quella covata dei fenomeni della stessa portata, ma insomma io trovo che i Giovinco, i Nocerino e qualcun altro, la loro brava figura nella Juve attuale l'avrebbero fatta. Grazie Giancarlo. Grazie a voi, arrivederci. Il congedo, dopo averlo ringraziato davvero Giancarlo Camolese, adesso corre allo spazio Book, sentite l'applauso per lo scatto di Giancarlo Camolese, Camola per gli amici, lo scatto per raggiungere lo spazio Book, dove tra poco inizierà questa tavola rotonda dal titolo Calcio di domani, valori di ieri, a cura del settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Per noi il primo intervallo, traffico. Adesso arriva il momento dei vostri interventi, preceduti da qualche curiosità statistica, giusto per inquadrare attraverso i numeri la giornata. Allora, vi dicevo all'inizio che la retrocessione della Sampdoria era destina, era scritta nelle stelle per una serie di ragioni astrali, oltre che di errori gravi commessi quest'anno dalla società prima e poi dalla squadra poi. Evidentemente pensate che la Sampdoria per aggiungere amarezza ad amarezza un anno fa centrava la Prodo in Champions League piazzandosi al quarto posto, tra l'altro con Marotta direttore generale e con Del Neri allenatore, che sono poi trasmigrati alla Juventus, e mi pare che anche in questo passaggio ci sia un po' questo doppio fallimento stagionale, perché io credo che nella valutazione finale di questo campionato, pur mancando ancora una giornata, ci siano come sempre le squadre che sono andate al di là delle previsioni, come l'Udinese, come il Napoli, come lo stesso Milan, alcune che hanno fatto peggio o molto peggio del previsto, come per esempio l'Inter, come il Bari e il Brescia retrocessi, ma io credo che i veri fallimenti siano quelli della Sampdoria e quelli della Juventus, perché la Juventus era oggettivamente partita, se non per vincere il campionato, certamente per arrivare sul podio. Finire anche fuori dall'Europa, salvo miracoli improbabili dell'ultima giornata, autorizza l'uso della parola fallimento. Qualche altro numero che riguarda per esempio il Milan è arrivato a fare a totalizzare un dato numerico di gol molto interessante, perché alla fine hanno segnato 14 gol ciascuno sia Ibrahimovic che Pato che Robinho. Vuol dire aver distribuito al meglio le risorse offensive. Poi c'è il grande finale di Cesena e Parma. Il Cesena ha realizzato 12 punti nelle ultime 6 partite, il Parma addirittura 13 nelle ultime 5, vuol dire 13 su 15. E ancora con questi 7 gol, l'ultimo, il gioiello di ieri, Giovinco ha firmato la sua miglior stagione in Serie A e ha segnato tanto quanto Krasic, che la Juve ha preso, sia pure con caratteristiche diverse, ma ha preso e piazzato nella sua posizione, pagandolo forse qualche soldino in più di Giovinco. Allora, il primo intervento, fermo restando che in sala vi potete prenotare, e così alterniamo magari gli interventi da fuori a quelli qua, diamo la precedenza a chi ci ascolta da lontano, poi per modo di dire, perché il primo ha chiamato da Torino e si chiama Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Lei da che punto chiama di Torino? È lontano? Casella. È lontano dal salone? Dall'altra parte della città. Allora, come l'ho detto, dica. Allora, io volevo solo dire velocemente che avrei due nomi per il rilancio della Sampdoria, e questi si chiamano Marotta e Del Neri. Magari così potrebbero fare un mercato accompagnandosi con gente come Martinez, Motta, Traoré e compagnia bella. Ecco, io ho sentito le dichiarazioni ieri di Del Neri, che diceva che la retrocessione della Sampdoria fa male al cuore. Io volevo in qualche maniera rispondere a lui che altrettanto male al cuore fa male ad alcuni milioni di tifosi juventini vedere la Juve giocare in questo modo, vedere la Juve senza assolutamente sul gioco, con motivazioni al limite del ridicolo. È solo questo volevo dirti. Sì, è un discorso che io credo di ricordare bene, fatto l'altro anno a proposito di Zaccheroni, l'anno prima a proposito di Ranieri, l'anno prima ancora non mi ricordo più a carico di chi, e quindi questo significa purtroppo, mi pare, per il popolo juventino che insomma, siamo un po' sempre allo stesso punto, o che comunque non... con l'aggravante che nel frattempo c'è stato anche un cambio dirigenziale, perché a un certo punto poi era diventata tutta colpa di Blanc, adesso invece Blanc quest'anno non c'entrava per nulla e in ogni caso sta per togliere il disturbo una volta finito lo stadio, e quindi mi sembra che sia uno slittamento all'indietro. Un intervento in sala adesso. Buongiorno, dica. Non, un attimo, perché c'è un problema di microfono, vediamo di cambiarlo. No. Sì, adesso sì. Buongiorno. Dica. Sono Sergio, tifoso juventino. Già sì. L'anno scorso ho partecipato a questa trasmissione qui e le avevo fatto una domanda proprio su Del Neri, sul progetto Juventus, Marotta, eccetera, eccetera. All'inizio questo progetto non sembrava nemmeno poi tanto male, perché fino a dicembre perlomeno la squadra sembrava più compatta, in difesa non era ancora eccezionale, però faceva molti gol, ricordo che comunque era forse la squadra che segnava più gol fino a quel momento. Poi il giocattolo si è rotto, come si usa dire in questi giorni, e adesso si ricomincia. Io più che sull'allenatore comincio a avere dei dubbi anche sui giocatori, anzi soprattutto giocatori. Meno male. Perché l'allenatore, come si è detto spesso in questa trasmissione, possono fare più danni forse. Però le motivazioni a questi giocatori chi le deve dare? Cioè, se a loro non basta, vista la vita che fanno e il lavoro che fanno, cercare di vincere e dare il massimo, forse l'allenatore qualcosina in più dovrebbe anche darla, e sinceramente comunque mi aspettavo qualcosa di più dai vari Aquilani, Pepe, Krasic. Lei cosa ne pensa? Non vale, penso, forse... No, io penso che abbia ragione in questa sua revisione, no? Mi pare, questa revisione progressiva mi sembra che sia abbastanza centrata, nel senso che ieri, insomma, sono un po' di settimane, per la verità, che sento dire o che leggo o che mi pare di capire guardando le partite che la Juventus era la sua peggior partita stagionale, però mi sembra appunto che sia progressiva. Supponiamo che ieri sia la peggiore di tutte, però il cammino, cioè il traguardo compromesso, la Juve lo ha compromesso per l'appunto nelle due ultime partite in casa, e cioè i 2-0 diventati 2-2 con Catania e Chievo. Ora, io trovo che attribuire ad errori dell'allenatore un 2-0 che diventa 2-2 in casa, giocando prima contro Catania e poi contro il Chievo, significhi veramente avercela per partito preso e per principio con l'allenatore comunque, cioè è sempre colpa sua. Dopodiché magari le colpe degli altri le vediamo eventualmente. Alterniamo, quindi Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Giornale. Volevo intervenire in merito a Genoa e Sampdoria, diciamo così, soprattutto al fatto dell'intervento di Camolese prima, in prospettiva futura, nel senso i giovani, le giovanili, quanto Genoa ha una primavera che sta mietendo successi da un po' di anni. Sul rapporto delle cinque grandi che vogliono bloccare un po' il mercato in base al tutto il contesto, insomma, della vendita dei diritti eccetera, teniamoci quelli buoni, i giovani, i vari El Shaarawy e compagnia bella che vanno in Serie B e fanno delle ottime cose, sono una prospettiva futura interessantissima per il calcio. Non diamoli a quelli che vogliono comprare facilmente tutto, e la prospettiva del calcio italiano, delle piccole, chiamiamole piccole, insomma, che anzi noi non ci riteniamo piccole, ma sono una prospettiva importantissima per il calcio italiano. Certo. Genoa, noi abbiamo una prospettiva molto valida su questi giovani. Speriamo di continuare così. Camolese parlava dell'importanza del settore giovanile e tutto. Stringiamo, Giovanni, grazie. Il concetto è chiaro, riguarda molte società in Serie A che non a caso si reggono sui giovani. Credo che questo sia un concetto che ormai molti hanno capito, qualcuno si ostina invece ad essere antistorico e ad andare per l'appunto contro questo che è un principio non solo formativo, ma che poi fa le fortune della società. Allora, dato che in questa tornata abbiamo avuto spazio solo per gli ascoltatori, adesso ce n'è un altro in sala, mi pare. Prego. Buongiorno, sono Osvaldo, tifoso juventino. Sì. Quando è iniziata la stagione, quando parlavo con i miei colleghi di lavoro, eccetera, dicevo, il vantaggio di questa nuova società e del nuovo allenatore è che peggio dell'anno scorso è difficile fare, no? Obiettivamente. Invece purtroppo alla fine ci siamo riusciti. Non era facile, devo dire. Anch'io non penso che tutta la colpa sia di Del Neri. La colpa, secondo me, è una colpa di mentalità. Cioè, non capisco come una squadra come la... Io onestamente non mi ero mai illuso, anche se fino a dicembre eravamo lì, che fossimo a livello magari di Inter e Milan. Però almeno a livelli di squadre come il Napoli, la Lazio e l'Udinese, cioè, è scandaloso che una Juventus non ci sia. Scandaloso no, perché bisogna dare il merito anche agli altri. Scandaloso in senso sportivo, in senso di mentalità. Cioè una partita come ieri, che paradossalmente, nonostante tutta una stagione allucinante, se vincevamo ieri comunque eravamo in Europa League, vincendo poi l'ultimo ovviamente. Cioè è lo specchio della mancanza di personalità, di l'avvitamento in cui siamo finiti in questa scheda, non lo so onestamente di colpe. Sa che sospetto mi viene? Che in realtà una grande motivazione per l'Europa League in chi gioca in una grande squadra non ci sia e credo che riguardi anche la Roma, ma che riguardi soprattutto la Juventus. L'idea poi di arrivare settimo e magari di doversi giocare anche i preliminari di Europa League, io non lo auguro a nessuno, perché poi è una coppa di cui a nessuno frega niente. Si è visto quest'anno che la Juventus avrebbe fatto a meno molto, ma molto volentieri, di giocarla all'Europa League. Ed è la classica manifestazione che prima ti sembra un traguardo, quando poi la devi giocare è una condanna. E quindi tutto sommato, dovendo per l'ennesima volta, non dico rifondare, ma ristrutturare pesantemente, forse l'unico dato positivo di questa stagione negativa della Juve è di non essere andata nemmeno in Europa League, perché o andavi nella Coppa di sopra e allora aveva un significato, ma per andare in quella e magari entrarci dalla porta di servizio delle qualificazioni che ti costringe a anticipare la stagione, forse è meglio così. Un leggero ritardo, grazie Laura Vanossi, mi fa cenni non ancora disperati ma quasi, e allora la borsa. Due notizie di giornata per ripartire. La prima è che Sergi Busquets, perno del centrocampo del Barcellona, giovane perno, giocherà regolarmente la finale di Coppa Campioni, perché è stato respinto all'UEFA un ricorso del Real Madrid contro di lui dopo la sfida avvelenata, la lunga sfida avvelenata tra i due grandi club spagnoli. La seconda è che il Siena ha deciso di lasciare libero il suo allenatore Antonio Conte di valutare un'eventuale offerta della Juventus, auspicando però una soluzione del caso nei primissimi giorni della prossima settimana. Mi auguro, ha detto Perinetti, direttore sportivo, che la decisione venga presa a breve, perché dobbiamo anche noi programmare la prossima stagione. Conferma in più che Antonio Conte è uno degli obiettivi, forse ormai è un testa a testa tra lui e Vilas Boas per la panchina della Juventus, senza ancora escludere Mazzarri, ma che sembra leggermente in discesa. Qualche voce da ascoltare di protagonisti di ieri. Beh, io partirei da Chiellini perché mi sembra che la disamina che lui ha fatto ieri su come la Juventus ha affrontato questa stagione lasci intendere molto chiaro il fatto che ci sono state colpe precise da parte della squadra. Abbiamo perso 1000 treni quest'anno, non uno, perché ogni volta che avevamo l'occasione di risvoltare la nostra stagione, di raggiungere un obiettivo, l'abbiamo cercato. Paradossalmente abbiamo fatto bene quando ormai non avevamo, sembrava che non avessimo più nulla da chiedere. Penso a Roma, penso alle due trasferte di Roma, altre partite che ormai ci davano per spacciati e invece siamo venuti fuori. Ogni qualvolta abbiamo dovuto fare quella partita per fare il salto di qualità, l'abbiamo sempre cercato. No, non siamo mai stata squadra in generale, reparto non reparto, credo che sia proprio la squadra, l'equilibrio di squadra. L'abbiamo avuto in quei due mesi in cui volavamo e credevamo di poter fare un altro campionato fra novembre e dicembre. Avevamo trovato il nostro equilibrio e quell'equilibrio che avevamo trovato in quei due mesi non l'abbiamo più ritrovato e ci siamo sfaldati. Piero è in linea dalla provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbiamo sentito questa intervista di Chiellini, da una disamina per sezzi, però il mio discorso partiva da un altro punto. Qua bisogna ricordarsi sempre da dove veniva la Juventus, da dove viene, dal terremoto, diciamo, no, del 2006. Quindi le squadre che sono arrivate davanti sono tutte squadre che hanno una programmazione, che hanno potuto lavorare nel tempo, vedi Udinese, vedi lo stesso Napoli, la Lazio, che piano piano sono riusciti a costruire qualcosa di importante, e la fretta è sempre una cattiva consigliera. Il discorso dei giovani, sì, anch'io la penso, però io faccio il camionista e quindi la mia idea ha poco valore, però se puntare sui giovani oggi non è facile, perché se poi fosse andato tutto male, allora avrebbero detto i soliti noti, no? Ma visto la Juve, forse era meglio se si teneva i suoi campioni. Vedi, sono dei giocatori tipo Criscito, che anche Ranieri in un attimo lo sciocca quando dopo la partita di Roma, e poi si vede che tutti cercano mezzo società. Io penso che ci vuole pazienza, lo so che non è che non è, però ci vuole pazienza, bisogna essere bravi. Bravissimo, ha ragione Piero, ci vuole pazienza, bisogna valutare i giocatori, ma non solo i giocatori, questa è una legge di vita prima ancora che di calcio. Non si può pretendere di giudicare un professionista sulla base di una o poche prestazioni, vanno valutate su un minimo di continuità, perché sennò si butta sempre via il bambino insieme all'acqua sporca. La Juventus in questi anni l'ha fatto veramente troppo spesso. Adesso c'è un ascoltatore in sala. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, mi chiamo Vincenzo. Volevo chiedere, appunto, rilacciandomi un attimino all'ascoltatore di prima, se per caso il peccato originale, l'origine di tutti i mali della Juventus attuali, non sia da ricercare appunto nell'estate del 2007, quando fu mandato via Deschamps e tornando praticamente dalla Serie B alla Serie A, si sarebbe potuto appunto dare vita a un progetto con Deschamps puntando sui giovani. Nessuno ti avrebbe chiesto nulla per un paio d'anni, dopotutto venivamo dalla B appunto, e faccio qualche nome, appunto l'ha fatto anche lei, Giovinco, Balzaretti, Miccoli, Criscito, non so, chi più, Brighi, chi più ne ha più ne metta. Cerino, Gastaldello, certo, e altri ancora. Io la penso integralmente come lei, con una eccezione. Lei dice nessuno gli avrebbe chiesto niente per due anni, non è vero, perché alla Juventus al massimo non ti chiedono niente per due mesi. Cioè, intendo dire in una grande società che ha voglia, a maggior ragione, che ha una voglia feroce di rivincita, questo non era possibile. Però quello era l'unico modo di costruire, e dato che la Juventus era stata bravissima a ripartire dalla Serie B, a calarsi nel ruolo, che non era facile, a interpretarlo bene e a vivere quindi una fase di spinta automatica, l'avere azzerato quella spinta per la fretta di tornare chissà a quale dimensione immediatamente è stato un errore capitale, ed è quello che la società sta pagando tuttora. Adesso io chiedo se poi in collegamento ci fosse qualcuno magari che ci tira fuori dalla Juventus ed eventualmente anche da Torino, perché insomma è vero che siamo a Torino al Lingotto, ma è anche vero che le puntate monotematiche servono ad approfondire da una parte, diventano anche magari leggermente monomaniche dall'altra. Ho detto Torino perché, per esempio, in Sala Rossa alle 19, stavo scorrendo il programma del Salone, ci sarà la presentazione di un volume, Il calcio in Piemonte dall'origine a oggi, in occasione della presentazione un libro dedicato a Orfeo Pianelli, cioè il presidente storico del Torino campione d'Italia, curato da Sabrina Gonzatto. E anche qua siamo a quello che dicevo all'inizio, e che poi domanderò, spero, a Massimo Gramellini se riusciamo ad agganciarlo telefonicamente, e cioè al fatto che Torino, che nella società civile continua a guardare avanti, nel calcio ha preso un po' inevitabilmente il complesso del torcicollo. C'era un altro ascoltatore in sala, mi sembrava che si fosse prenotato. No, al momento no, sul display non vedo nomi di ascoltatori. E allora sentiamolo Giovinco dopo la prodezza di ieri. No, mi dispiace molto per l'annata che hanno trascorso, sicuramente non me l'aspettavo, però io devo guardare in casa mia, e sicuramente dopo un inizio brutto ci siamo ripresi alla grande. Sono contento, ma al di là di che ho raggiunto Krasic, ho raggiunto i 6 gol che avevo fatto a Empoli, l'ho superati, e quindi sono molto contento. E so che si devono parlare, comunque penso che troveranno sicuramente la soluzione. Il presidente e il direttore sono stati chiari, io pure, quindi penso che non ci sarà nessun problema. Io voglio giocare, quello è sicuro. Un ascoltatore in sala. Dario, tifoso della Juventus. Volevo chiedere, è proprio il caso di spendere 30 milioni per il Kun o qualcun altro così? O non è meglio rinforzare la difesa, prendere due terzini come Dio comanda? Centrale un po' buono. No, non lo so, cioè, arrivati a questo punto, se non ci arrivano, cioè, se non sa, ormai sono anni che falliscono le scelte quelli deputati a farle, quelli che sanno, sia che conoscono da una parte le risorse disponibili e dall'altra le lacune tecniche. Se si continua a cambiare progetto tecnico, se continua a esserci sempre l'allenatore più bravo, è sempre quello che allena da un'altra parte, i giocatori più bravi sono sempre quelli che giocano altrove, secondo me se si va avanti così i tempi si prolungano. Poi è vero che la proprietà ha annunciato per quest'anno investimenti massicci, io sinceramente non le so dire in che ruolo. Istintivamente sarei anch'io per la difesa. Ma le dico per un numero, la squadra di Del Neri quest'anno ha subito 45 gol, cioè solo uno in meno della Samp che è retrocessa, ed ha la peggior difesa casalinga del campionato, ha preso più gol del Bari in casa quest'anno. Quindi io alla fine la penso come lei, ricominciamo dalle fondamenta anziché inseguire le chimere. Traffico. Se leggo esattamente sul display, mi pare di poter dare il benvenuto a Massimo Gramellini. Massimo, buongiorno. Ti parlo bene, ciao. Senti, ciao. Allora, ieri ho letto dalle cronache che ieri c'era una coda che arrivava vicino al mezzo chilometro per venirti ad ascoltare in versione. No, storico. Dai, non è così. No. Erano i creditori, forse. Come non è così? L'ho letto sulla stampa. Sì, no, allora se l'hai letto sulla stampa è vero allora. E allora è vero, questo è evidente. Senti, io prima di farti due domande, ti farei sentire l'appuntamento di oggi con la nostra rubrica Sembra Ieri, che rievoca ogni giorno, un fatto storico successo in quel giorno di un certo anno. Prova a sentire questo. Sembra Ieri. 16 maggio 1976. Per i tifosi del Toro è il giorno di una festa indimenticabile. 27 anni dopo la tragica fine dell'epopea del Grande Torino, la squadra granata, guidata da Gigi Radice e sospinta dai gol dei gemelli Graziani e Pulici, porta nella bacheca del club lo scudetto numero 7. Nell'ultima giornata basta un pareggio al Comunale contro il Cesena, mentre la Juventus, che inseguiva minacciosa una sola lunghezza, crolla sorprendentemente a Perugia, sconfitta per 1-0 con gol partita di Renato Curi. Oh, come sempre la rubrica è di Nicola Filippone. Massimo, dov'eri quel giorno? Non ci sono più adesso, scusatemi, ma sono dopo questo ricordo, puoi immaginarti, sono ammutolito. Dove vuoi che fossi, Gigi? Ero allo stadio, ovviamente. Ero un ragazzino che viveva il giorno più bello della sua vita, perché insomma di scudetti nella vita ne ho vinto uno solo, quindi non me lo posso dimenticare o confondere con altri. E quindi ricorderò finché vivo quel cross sbilenco di Graziani con la palla che va in mezzo alle scarpe dello stopper del Cesena, e nessuna persona normale si sarebbe buttato in mezzo alle scarpe di un avversario. Invece Pulici si tuffò e quella palla che era per terra riprese vita, si sollevò e andò dentro la rete. Poi quello che successe dopo, francamente, non me lo ricordo più. Non te lo ricordi più. Io ricordo invece, anche avendo qualche anno più di te, che quello stopper del Cesena si chiamava Danova e diventò poi una colonna del Torino agli anni successivi. Massimo, io ti ho disturbato e ti chiedo davvero scusa. E ti rubo ancora due minuti per una risposta a questa domanda. Perché Torino è a pieno titolo capitale d'Italia che guarda nel futuro? Penso al 17 marzo, agli Alpini, al Giro d'Italia, a questo stupendo salone che sta di nuovo battendo record di affluenze. E perché invece non è più la capitale del calcio? Ma guarda, forse può anche essere un segno di evoluzione, chi lo sa. Il fatto che in Piemonte si investa di più nell'arte, nella cultura, che non nelle attività atletiche. E guarda, io ti devo dire questo, io ho iniziato a fare giornalista a metà degli anni Ottanta a Torino, facevo il collaboratore di un giornale sportivo, e nel weekend correvo come un pazzo da uno stadio all'altro a seguire la squadra di basket, la squadra di pallavolo, quella di pallamano, quella di rugby, tutte in Serie A. Tutte che giocavano addirittura il basket, le coppe europee, la pallavolo, la Clippan era campione d'Europa. In più avevi la Juve che vinceva gli scudetti e il Toro che quando arrivava quinto o sesto veniva fischiato, era un disonore scendere sotto il quinto posto finale in classifica. Questa era la realtà calcistica e sportiva di allora. 20 anni dopo non c'è più una squadra di nessuno sport in Serie A, a parte la Juventus nel calcio e il Torino in B. Questo è quello che è successo in questi anni. Evidentemente non c'è più questa volontà di investire. Io credo che cambierà, perché poi la realtà cambiano sempre, e cambierà con il nuovo, cambierà subito già quest'anno per la Juve con l'avvento dello stadio nuovo, lo stadio delle Alpi. Sì. E mi auguro che la stessa cosa avvenga con la rinascita del Philadelphia per il Toro. Io credo davvero che avere degli stadi di proprietà, avere delle cittadelle che appartengono, possa ridare forza, sì, anche stabilità economica e basi economiche per un rilancio, per un calcio anche che rispetti un pochino di più i bilanci rispetto a quelli che abbiamo visto in questi anni. Solidità economica e non solo solo senso di appartenenza. Massimo, da quando si è sparsa la tua voce in questo stand del salone, c'è gente che si ferma e crede forse di veder ballare i tavolini, quindi dato che non vorrei arrivare a rischi di paranormale, io ti ringrazio e ti abbraccio. Senti, con grande affetto ringrazio te e tutti quelli che ci stanno ascoltando al salone e in giro per l'Italia, e visto l'argomento fammi finire con un Forza Toro, visto che siamo ancora in corso per venire in Serie A, insomma la speranza c'è ancora. Che non guasta mai, e mi sarei preoccupato se non l'avessi intonato. Grazie Massimo. Ciao. Chiudiamo questo collegamento con il vice direttore della stampa. E tra poco abbiamo la rubrichetta finale, no? L'appuntamento con il Giro d'Italia, però c'è un ascoltatore in linea da Genova da qualche minuto e vorrei almeno dargli spazio. Maurizio, dica, buongiorno. Salve, signor Grantini, buongiorno. Buongiorno. Io disturbavo per una cosa, non è che sia bellissimo sentire parlare i tifosi delle altre squadre di una squadra che non sia la loro, ma va bene così, a parte quello che non ha importanza. Io volevo sapere se le risulta, come è uscito stamattina su siti non genovesi e comunque non sampdoriani, che ci sia una squadra in grosse difficoltà amministrative ed economiche che riesce ad andare in Serie B. La ringrazio e la saluto, buongiorno. Non ho capito, in grosse difficoltà amministrative ed economiche che... non so, io non ho sinceramente capito quale fosse il messaggio. A me risulta che la squadra che ieri è retrocessa, insomma, sia retrocessa anche perché il presidente, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, non la sta potendo in questo momento seguire molto direttamente. E questa è un'indiscrezione di ottima fonte e di grande amarezza. Sul resto sinceramente non saprei. So che, perché queste sono altre notizie di giornata, che l'Italia giocherà un amichevole con l'Irlanda il 7 di giugno a Liegi, e questo è un appuntamento fissato stamane. So anche che oggi è la giornata di riposo al Giro d'Italia, ma non per questo abbiamo intenzione di saltare il nostro appuntamento quotidiano. Prego la sigla. Voci dal Giro. C'è evidentemente qualche problemino sul collegamento. Era previsto un contributo vocale di Vincenzo Nibali sulla tappa dell'Etna di ieri. Forse è pronto adesso. È partito con uno scatto fulmineo che nemmeno gli altri si aspettavano. E ho cercato di gestire le forze per sfruttare bene gli ultimi chilometri. Sapevo che c'era tantissimo vento e davanti si faceva fatica. Si sa che Alberto va forte. Sono stato il più calmo possibile, anzi devo essere onesto, la prima parte della corsa non stavo nemmeno tanto bene, poi piano piano sempre meglio. Veramente una tappa bellissima per quanto riguarda questo calore siciliano, si sa. Tantissima gente, sono veramente contento. Voci dal Giro. Oggi è il primo dei due giorni di riposo previsti in questo giro, che ripartirà domani da Termoli per arrivare a Teramo dopo 159 chilometri. Gli appuntamenti del Salone del Libro prima della chiusura di stasera sono ancora molti. A me piace segnalarne uno non sportivo: alle 18.30 in Sala Azzurra, un ricordo di Fabrizio De André in occasione della pubblicazione del volume Controsole, Fabrizio De André, Creus Ademà, di Ferdinando Molteni e Alfonso Amodio. Con gli autori interverrà Pepi Morgia e le musiche saranno di Teresa De Sio. Vi ricordo alle 18.30 in Sala Azzurra. Questo è un avviso ai naviganti che sono qui, l'avviso agli ascoltatori a casa invece è quello di ritrovarci domani puntuali come sempre alle 14, dopo avervi ringraziato per l'ascolto. Buon pomeriggio.